4 mattino. Simone, sono Croce, prendo il treno tutti i giorni dalla Maremma fino a Roma per lavoro e non mi faccio prendere da questo panico che si è sparso in tutta Italia. Ma perché dobbiamo essere arrivati, siamo arrivati a questo punto? In sostanza si è dimostrato che le parole che ha espresso Zhang, il presidente dell'Inter, dando del clown al presidente della Lega, in fondo erano semplicemente dei complimenti, perché come volevasi dimostrare aveva ragione, perché si giocherà a porte chiuse probabilmente almeno per un mese e lui non voleva fare questa azione. Ma pensa se sospendono il campionato di calcio e la Lazio non vince lo scudetto! Non commento su quest'ultima, non commento, perché sapete che sono di parte, ormai lo sapete, sono romanista, quindi insomma su questa non commento. Mi prendo le prese in giro degli ascoltatori laziali quando scrivono, quando mandano i WhatsApp, del nostro Alessandro Marco Tulli in redazione con noi, lazialissimo, e quindi non taccio su questo. Oh, invece la questione delle porte chiuse c'è. Devo dire che tutta la gestione da parte di tutto il mondo del calcio è stata un po' surreale. Sul fatto invece l'ascoltatore che mi dice: io tutti i giorni prendo il treno dalla Maremma a Milano, perché dobbiamo avere paura? Non è che dobbiamo avere paura, cioè bisogna fare tutto con calma, senza panico, però bisogna prestare la giusta attenzione. Come sapete, fin dall'inizio su questa vicenda mi sono espresso, per quanto ovviamente non sia né un virologo né un epidemiologo, però consultando, leggendo, sul fatto che appunto nei giorni nei quali si scatenava il panico più completo, ossia nella giornata di lunedì della scorsa settimana, dicevo calma, cerchiamo di mantenere la calma. Siamo passati in una settimana dalla calma più completa alla sottovalutazione, no, tranquilli, è tutto a posto, è tutto tranquillo. Adesso stiamo trovando una fase di assestamento nella quale stiamo dicendo ok, vediamo di mettere le cose a posto. Non facile. È la seconda parte di 24 mattino, sono le 7:20, 20:38, è mercoledì 4 marzo, al microfono c'è sempre Simone Spezia ed è la parte dedicata alla rassegna stampa. Prime pagine dei quotidiani in gran parte dedicate ai vari aspetti appunto del coronavirus, di Covid-19, quantomeno nelle aperture. La stampa titola: Italia in quarantena per un mese. Il Corriere della Sera: virus, nuove regole in tutta Italia. La Repubblica: salutarsi da lontano senza baci. Il Messaggero: rinunce e limiti antivirus. Libero: virus alla conquista del Sud, l'infezione crea l'unità d'Italia, scrive. Siamo nelle mani di questi qua, il titolo della Verità, foto di Speranza, Gualtieri e Spadafora. Il Fatto Quotidiano: crema al lazzaretto di Milano, lasciati soli dalla regione, parla il medico e assessore Galmozzi, preservano il capoluogo ma abbiamo 7 posti di terapia intensiva e 0 infettivologi. Gli aspetti economici li troviamo sul Sole 24 Ore in apertura: contro l'incertezza, terapia d'urto della Federal Reserve, i tassi tagliati dello 0,5%. Il Manifesto, che parla del contagio del lavoro con un'intervista a Maurizio Landini. Il Quotidiano Nazionale con la crisi da virus e il dramma turismo. Il Giornale, che titola così: non basta elemosina per il Nord. Si discosta da tutti gli altri Avvenire, che titola su quello che avviene al confine tra Grecia e Turchia, sulla pelle dei profughi, i rifugiati vittime del braccio di ferro tra Ankara e Bruxelles. Iniziamo però, come sempre, da qualcosa di laterale, qualcosa di diverso, e poi verremo alla vicenda del coronavirus. Ci arriveremo tra poco con Paolo Mieri nella parte centrale della nostra rassegna stampa. Parleremo di questo, parleremo anche delle primarie del Super Tuesday che si è svolto questa notte. E tra l'altro, fatemi fare una correzione, un errore: prima ho detto che il Super Tuesday, nel Super Tuesday si assegnano il 10% dei delegati. Per Super Tuesday sono questo pezzo delle primarie americane, il momento più importante delle primarie americane, nel quale si decide quello che sarà lo sfidante di Donald Trump. In realtà è oltre il 30%, mi ha fatto notare un ascoltatore su Twitter, che ringrazio, non mi ero accorto di aver fatto questo errore. Allora, iniziamo, come si diceva, da qualcosa di laterale. E partirei dalla cronaca di Roma, pagina 40, per un caso giudiziario francamente abbastanza assurdo che appunto ci viene raccontato da Adelaide Pierucci. Mente ai pubblici ministeri, rischia più anni del killer che tentò di ucciderlo. Guardate che è incredibile la storia. Allora, gli hanno sparato alla schiena. Rischia una condanna più pesante di chi ha fatto fuoco premendo il grilletto 4 volte. Non deve aver calcolato bene la reazione della giustizia un trentenne di Tor Pignattara, uscito per un soffio nel settembre di 2 anni fa da un tentativo di esecuzione, così inquadrata dalla procura, in piena notte in mezzo alla strada. Da subito, infatti, Danilo Pomella, 33 anni, incensurato, ha fatto una scelta condivisa con amici e parenti: non riferire nulla su chi gli ha sparato, ma solo negare, dichiarare con fermezza di non aver visto o saputo niente. E se necessario, disconoscere eventuali intercettazioni, partendo da un presupposto ricavato da una captazione ambientale. Mai passare per infami. Il risultato, quasi paradossale: mentre il pregiudicato che ha sparato, Alessandro Coppola, detto Sandrino, 28 anni, è stato condannato a 3 anni e 3 mesi per lesioni gravi, grazie alla scelta del rito abbreviato e alla derubricazione del reato da parte del giudice rispetto al tentato omicidio. Cioè, questo gli ha sparato 4 colpi nella schiena e il giudice ha deciso di derubricare da tentato omicidio a lesioni gravi, e quindi, insomma, sono 3 anni e 3 mesi. Pomella, che si è ritrovato uno dei 4 proiettili conficcati alla schiena, rischia sulla carta una pena più grave. Il reato a lui contestato, ossia le false dichiarazioni dell'autorità giudiziaria, sono punibili fino a 4 anni. Il trentenne però non sarà eventualmente solo al processo, perché ci saranno anche i parenti. Pagina 40 del Messaggero, storia raccontata da Adelaide Pierucci, cioè ci dà una discreta misura di certi malfunzionamenti della giustizia, per quanto poi giustificabili, cioè in termini di legge è tutto chiaro, tutto nitido, semplice, e però insomma, una certa impressione la fa. Ritorniamo a Napoli anche, perché la vicenda del ragazzo di 15 anni che è stato ucciso dal carabiniere e che lungamente abbiamo raccontato nei giorni scorsi, la ritroviamo sulle pagine dei quotidiani, a pagina 23, La Repubblica, con Roberto Saviano, ci porta con un racconto di Saviano, appunto Ugo, ucciso a 15 anni e le vite bruciate nei vicoli di Napoli, dove appunto il tema è esattamente questo, l'ambito nel quale tutto questo sorge. Ieri avevamo letto la pagina del giornale che raccontava dei precedenti simili per rapina che aveva il padre di Ugo, il ragazzo ucciso. Ma prendiamo anche altro, e ce lo racconta il giornale a pagina 15, che nei minuti nei quali i parenti e gli amici di questo ragazzo, di questo quindicenne, devastavano il pronto soccorso in questa scena allucinante che abbiamo visto avvenire. Ebbene, nel reparto di rianimazione moriva una donna di origine ucraina, ricoverata da qualche giorno a causa delle botte violente prese dal marito, 39 anni. E i parenti della donna, vittima dell'ennesimo femminicidio, venivano spintonati e gettati a terra dalla furia incontenibile di quel centinaio di persone che scaricavano il loro dolore per la perdita del congiunto su chi non c'entrava niente. Un dolore per i parenti per la donna, già provati da una tragedia così grande, poi anche costretti a vedere scene degne dell'Italia peggiore, quella del degrado e dell'illegalità. Per fortuna che le telecamere di videosorveglianza hanno registrato tutto e ora i filmati sono finiti dritti in procura, e speriamo, aggiungo, che queste persone vengano punite come si deve. Una persona, questa donna, Irina, vittima di violenza contro le donne, di un femminicidio. A questo punto il quotidiano nazionale ci riporta ancora una volta con la sua redazione politica, il pezzo non è firmato, siamo a pagina 16, su una delle tante foto che il deputato del Partito Democratico Filippo Sensi pubblica sul suo profilo Twitter, non FUP. Sul suo profilo Twitter cosa ha pubblicato ieri? Beh, ha pubblicato l'ennesima foto del Parlamento vuoto, deserto, non c'è nemmeno uno ad ascoltare la discussione generale sulla parità di genere e la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne. O certo, in questo caso non c'è un provvedimento da votare, c'è una mozione, c'è una riflessione da fare, un testo promosso dalle parlamentari di maggioranza Laura Boldrini, Stefania Ascari, Maria Elena Boschi, Rossella Muroni, Veronica Giannone e altre. E il Parlamento è desolantemente vuoto. Lo spettacolo annesso è stato molto più che desolante, decisamente non in linea con la serietà e l'impegno che l'argomento avrebbe richiesto. Banchi praticamente vuoti, pochissimi i deputati presenti. Non è la prima volta che la Camera e i banchi restano vuoti anche quando si discute di provvedimenti importanti e simbolici. In questo caso, potrebbe pensare qualcuno, c'è di mezzo anche la paura del coronavirus. In realtà invece negli ultimi mesi è già successo altre volte ed è sempre stato Sensi a pubblicare le foto dei banchi senza parlamentari. È capitato per esempio il 20 gennaio, quando è stata disertata la discussione generale sulle misure urgenti per il sistema creditizio nel Mezzogiorno, in sostanza quella che doveva riguardare la Banca Popolare di Bari, e poi dicembre 2019, emiciclo mezzo vuoto, quando il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte viene chiamato urgentemente a intervenire sul MES. La ricordate la polemica? Quella sul meccanismo europeo di stabilità? Anche là la Camera vuota. Prima di chiudere questa prima parte e poi andare al coronavirus, sul fronte delle malattie c'è una buona notizia che arriva dall'Africa. Ce la racconta Lorenzo Simoncelli a pagina 15 della Stampa. L'ultima paziente malata di Ebola, in cura presso il centro medico di Benin, nella Repubblica Democratica del Congo, è stata dimessa dopo che il personale sanitario dell'Organizzazione Mondiale per la Salute ne ha certificato la guarigione. Una notizia positiva che si aggiunge all'assenza di nuovi contagi nelle ultime due settimane. Sembra un miraggio dopo 20 mesi di epidemia costata la vita a 2.264 persone nel nord-est del Congo. Infermiere e personale locale hanno festeggiato con canti e balli. La speranza è che non si riscontrino nuovi casi, la speranza è che Ebola in quest'area del Congo sia debellata. Una pausa. Le 7:36 minuti, caro Paolo Mieli, caro direttore, buongiorno. Eccoci qui. Eccoci. Allora, iniziamo direi dal coronavirus e dalle cronache che troviamo sui quotidiani. Ci sono anche pezzi di politica ovviamente che entrano in tutto questo, ma insomma inizierei dalla parte di cronaca. Quali sono le cose che ti hanno colpito di più oggi? Ma una cosa apparentemente lontana dal coronavirus è che sono la testata del Sole 24 Ore contro l'incertezza, terapia d'urto Fed, nel senso che sono stati tagliati, come è noto, i tassi a sorpresa dello 0,5, il doppio rispetto alle attese, e sempre dal Sole 24 Ore è ovvio che questa è una misura per l'economia, così, però tiene presente anche per la scelta dei tempi questo incubo sì. Internazionale del coronavirus. E mi ha molto colpito l'editoriale di Donato Basciandaro sul Sole 24 Ore, dice un effetto sorpresa, lo loda, però dice che c'è qualcosa di opaco, qualcosa di poco chiaro. Molto interessante questo articolo, perché tutte queste misure, adesso vedremo anche le misure prese in Italia, sì. Italia sono state prese delle misure che sono quelle di che non bisogna abbracciarsi, bisogna sì, stare in realtà poi non ancora prese. Oggi tra oggi e domani dovrebbe esserci un nuovo consiglio dei ministri, un nuovo decreto che stabilirà una serie di cose, forse addirittura la chiusura delle scuole in tutta Italia, però insomma, vedremo naturalmente come andranno le cose. Dicevi di Masciandaro, sì, che insomma parla di una moneta a due teste lanciata dalla Federal, esatto, Reserve, insomma un po' di perplessità a fronte di questa mossa. Ci sono molte perplessità, poi per quello che riguarda l'Italia hai ragione, nel senso che le misure non sono ancora prese, c'è una certa decisionite o indecisionite in Italia, nel senso che viene annunciato un decreto al giorno, forse sarebbe meglio prendersi 24 ore e fare una cosa risolutiva, capisco che queste battaglie si combattono giorno per giorno, però un decreto al giorno e poi forse sfrondarli delle vaghezze, non abbracciarsi, queste sono norme da suggerire, ma non sono norme da codificare, nel senso che chi si abbraccia che pena ha, le norme che stabilisce un governo, e chi sta invece che a un metro a 50 centimetri, poi le televisioni sono piene, come avrete visto, di immagini di gente che va abbracciata a visitare il Duomo appena riaperto, insomma, sono cose, lavarsi le mani si può dire, lo si dice dal primo giorno, però non sono cose da decreto. Comunque sono sospese tutte le manifestazioni fieristiche, venite lì. Sto leggendo un articolo di Giovanna Mancini sempre sul Sole 24 Ore, slitta a giugno. Sì, Vinitaly che rappresentava, che lo ricordiamo nei giorni scorsi, ma dobbiamo dirlo, no? Aveva rappresentato un po' il simbolo del tentativo di ripartire, l'idea che comunque si sarebbe svolto, ebbene alla fine hanno dovuto rinunciare anche loro. Ma anche su questo lasciami dire che sì, capisco la generosità di dire sì, noi lo facciamo lo stesso, è giusto per il cibo piuttosto che per il teatro, però ci vuole più compostezza e sarebbe meglio pensarci su, dare degli annunci, secondo me di rinvio, perché in una fase come questa dove i morti aumentano a livello esponenziale, anche se per fortuna ci sono molti guariti, però il contagio è un contagio che non, che non si ferma, io sospenderei tutto e sarei per provvedimenti più coraggiosi. È inutile dare segni di speranza quando poi te li devi rimangiare, diventano segni di delusione. Sì. Però non è questa, la notizia che mi ha colpito di più è una notizia che riportano tutti i giornali, che è morto Ivo Cilesi. Chi è Ivo Cilesi? È un medico importantissimo che aveva inventato una cura, la Dol Therapy, per i malati di Alzheimer, e che aveva 61 anni, abitava a Cene, era a Salso Maggiore, ha avuto una crisi respiratoria ed è morto. Cosa mi colpisce di questa notizia? Mi colpisce che aveva 61 anni, che giovedì scorso era allegro, contento, venerdì si è sentito male e lunedì è morto, e ripeto, aveva 61 anni, c'è qualcosa che non torna. Probabilmente mi dirai subito, avrà avuto altre patologie. Sì, i giornali non dicono niente, raccolgono voci di, non so se di parenti o amici, che dicono non aveva altre patologie, però ovviamente non lo sappiamo, perché questo dovrà essere verificato dai medici e solo dopo lo sapremo. Però io me la sentirei a questo punto, io non voglio sapere i nomi di tutti i contagiati, perché poi si scatena la caccia al contagio, alla paura, all'untore, i segni sotto casa, però almeno dei morti mi piacerebbe conoscere la casistica completa con il nome e il cognome, oppure togliamo anche il nome e cognome. No, togliamolo, sì. Quando si sono... Età e patologie pregresse, età e patologie pregresse quantomeno, insomma. Età, e quanto è passato fra il momento in cui si è scoperto il virus e il momento in cui sono morti, anche per potersi dare una regolata, perché siccome fino adesso si era detto che il 90-95% erano tutti ultra ottantenni, malati di cancro, e poi scopri che un signore era tra l'altro in ottima salute, ci sono le foto dei giornali, anche un po' in sovrappeso, capisci? Viene colpito il venerdì e lunedì muore, c'è qualcosa, insomma, pubblicato. Va chiarito meglio. E insieme a questo, meno chiacchiere sui giornali. Io vedo sui giornali, sì, secondo me c'è un eccesso di pagine, di rassicurazioni generiche, di cose ripetute, di, insomma, c'è un di più di informazione e nello stesso tempo un di meno di informazione. Molti più fatti, mi piacerebbe leggere, e meno chiacchiere. E meno retroscena. Ascolta Paolo, c'è anche ovviamente un riflesso politico di tutto questo, no? Innanzitutto questa chiamata alle armi dell'opposizione da parte del governo, che pare aver funzionato poco, cioè già citavamo questa mattina il commento sulla stampa di Sorgi che dice, insomma, ragazzi, qua sembra che l'opposizione non abbia alcuna intenzione di fare da stampella al governo in questa situazione che potrebbe essere una situazione di unità nazionale. Dall'altra parte c'è la questione del referendum che a questo punto potrebbe essere rinviato. Sì, quasi sicuramente sarà rinviato. Anche qui prendere misure energiche per tempo, se c'è da rinviare questo referendum, che è chiaro che sarà rinviato, perché come si fa in un contesto come questo a aprire le urne a un metro di distanza, senza abbracciarsi, senza darsi la mano, si fa il referendum a fine marzo. Io prenderei anche in questo caso decisioni più nette. Vedo che ci sono e sconsiglio ai, vedo appunto che la destra dice troppe poche i soldi e sparano delle cifre. Anche in questo c'è qualcosa di dilettantistico, di strano, o comunque distonato, no? Esatto, distonato. Sì. Per fortuna ci sono le sardine. Se ne occupano loro. Vedo che Repubblica con una pagina intera, pagina 12, annuncia Sardine espulso il gruppo di Catania, sono infiltrati. Io sono andato a leggere l'articolo molto ben fatto di Emanuele Lauria e Giorgio Ruta e di chi erano infiltrati queste sardine di Catania, dal PD. Cioè, erano sembra una grande... L'infiltrazione delle sardine, beh, fantastico. Sì, perché avevano già buttato fuori l'ex referente napoletano Bruno Martirano, poi si era fatto da parte Stefano Gongo, il capo dei Romani. Le sardine nello stesso tempo hanno deciso di andare sulla mare Ionio a soccorrere i migranti, ma di questo ce ne parleremo dopo. Però c'è una buona notizia nelle sardine, la prendo dal giornale, che uno dei capi dei Sinti, conosciuto come Alexian, si chiama Santino Sipinelli, ha rivelato che suo figlio, un figlio è una sardina. Gennaro Spinelli, no, altro che una sardina, tu sei semplicista, è promotore delle sardine abruzzese e coordinatore della pagina Facebook. Fantastico, quindi, va bene. Va espellono bene. Quelli di Catania perché sono infiltrati dal PD, però... Però in Abruzzo proseliti abruzzesi fanno breccia. Proseliti. Insomma, una nota di buon umore ce le danno sempre le sardine, di ciò le ringraziamo. Traffico. And we're told well when he got to Super Tuesday it'd be over. Well, it may be over for the other guy. Tell that to the folks in Virginia, North Carolina, Alabama. E qua sentiamo Joe Biden che cita tutti gli stati che lo hanno votato in questo Super Tuesday, però l'audio è di qualche ora fa e quindi non può citare il Texas che è arrivato adesso e che quindi dà ancora più forza alla vittoria di Biden in questo Super Tuesday. 13 stati, 9 a Biden e 4 a Sanders, con un'assegnazione di delegati ovviamente in stragrande maggioranza per l'ex vicepresidente di Obama. Ovviamente Paolo, questo sui giornali non c'è, però una tua valutazione, un tuo commento, una tua analisi. Beh, è stata una resurrezione di Biden, anche se Sanders ha vinto stati importanti, la California, quindi è ancora fortemente in partita, insomma non è una partita chiusa, però è stata la resurrezione di Biden. È lui l'uomo su cui puntano i potenti del Partito Democratico, perché ormai si stanno schierando tutti i potentati, come l'altra volta si schierarono dalla parte di Hillary Clinton, questa volta sono su Biden. E la notizia nascosta, però vedrai che domani sui giornali spunterà, è che Bloomberg ha ricevuto un ceffone, ma anche lui io non lo considererei definitivamente fuori partita, perché Bloomberg è pieno di soldi e quindi Bloomberg è uno che può giocare lo scontro con Trump a parità di condizioni, anzi a più mezze di quelli che ha Trump, e quindi insomma il Partito Democratico ha necessità di tre uomini che sono i vincitori e gli sconfitti della partita del Super Tuesday, perché ha bisogno dell'anima radicale, che è l'unica, quella di Sanders, che è l'unica che mobilita i giovani e li mobilita ancora in modo corposo. Ha bisogno di Biden, che è il candidato quasi designato, ancorché ammaccato dallo scandalo dell'Ucraina, delle commesse a suo figlio, e ha bisogno dei soldi di Bloomberg. Certo. Da oggi sui giornali, forse non di domani, ma di dopodomani, quindi dopodomani ci sarò di nuovo io e ne riparleremo, da oggi ha bisogno di mettere insieme questi tre. Però sicuramente grande giornata piena di sorprese, la notte del martedì americano è stata piena di sorprese. L'altro fronte, l'altra grande notizia di queste ore è la tensione tra Ankara e l'Europa, la decisione di Erdogan di far partire i profughi che si trovano sul territorio dopo l'offensiva ad Idlib, 130.000 persone che si ammassano sul confine turco-greco, e c'è un solo giornale che dedica l'apertura a questo ed è Avvenire. Il titolo è Sulla pelle dei profughi, perché qua il tema, Paolo, è Ursula von der Leyen che dice: la Grecia è lo scudo d'Europa, vi aiuteremo, pur sapendo che questi non sono migranti economici ma sono in gran parte siriani. Certo, leggo su Repubblica un articolo di Marco Mensurati, che c'è stata subito una dichiarazione del PD, che ha del Partito Democratico in Italia, che ha detto che quella della von der Leyen è una frase disumana e che donne e bambini non possono essere considerati un pericolo. Insomma, si ripropone in chiave mondiale una disputa che noi italiani ben conosciamo. E del resto la sinistra italiana e Avvenire, è un giornale che può essere considerato almeno parte dell'anima di questa sinistra italiana, si trova in forte imbarazzo, perché la von der Leyen, come è noto, è una loro candidata, insomma hanno votato anche per lei, e propone una politica dura, adesso non so come definirla, ironicamente la definirei salviniana nei confronti di questi profughi. E non ti dico, perché tu hai letto l'Avvenire, ma leggo qui sulla seconda pagina del manifesto, dice: l'isola dell'inferno, la frontiera tirata su da ronde fasciste e fuoco del governo, aggrediti a Lesbo attivisti, in mare la guardia costiera spara, i profughi in cammino lungo il fiume. Insomma, questo è una grandissima controversia che ci ripropone un dilemma che noi ben conosciamo: accogliamo o non li accogliamo i profughi? Cerchiamo di fare in modo o gli spariamo addosso? Noi in Italia per fortuna non abbiamo mai sparato addosso, ma in Grecia si spara, e sembra con l'approvazione della von der Leyen, dell'Europa, che poi ammanta il tutto di chiacchiere, ma insomma è una questione che dovremmo seguire. Noi, con molta, sai, la stiamo seguendo con grande attenzione. Con grande attenzione. Prima che si affacciasse. Voglio segnalare agli ascoltatori. Merito tuo. Addirittura, grazie. E tuo, naturalmente, dai, facciamoci complimenti a vicenda. Allora, voglio segnalare agli ascoltatori le cronache, le trovate ottime su Avvenire, pagina 5, con Nello Scavo, inviato a Castanies. Inviata a Castanies anche Francesca Paci, l'avete sentita alle 6.30, ce l'abbiamo avuta ospite. Sulla Stampa, Lorenzo Cremonesi del Corriere, ma anche su Avvenire un bel pezzo, una bella paginata intera di Paolo Lambruschi, che va all'origine di tutto questo. Niger, l'altra frontiera migrante, il viaggio a Niamey, dove parte la rotta di chi sogna l'Europa e spesso rischia di morire nell'indifferenza. Un bellissimo racconto anche qua. Ti voglio portare in Israele a questo punto, Paolo, per commentare la rinascita di Netanyahu, che è ad un passo dalla maggioranza assoluta della Knesset, però insomma la sostanza che ha stravinto le elezioni. L'eterno ritorno, lo chiama Bernardo Valli su Repubblica, l'eterno ritorno di Netanyahu, sai, sono 25 anni che Netanyahu, dato per morto e soprattutto inseguito dai giudici, perché era una quantità di vicende giudiziarie e lo stavano per acciuffare, a questo punto è chiaro che è l'uomo forte di Israele, anche se, come tu hai giustamente osservato, gli mancano due seggi per fare la maggioranza assoluta, ha stravinto, nel senso che ha stracciato il suo avversario Benny Gantz, che era suo avversario già nelle precedenti elezioni, ormai lì la partita è chiusa, e se ne può trarre una legge per Israele che Netanyahu entra nella storia di Israele, uno di questi leader molto longevi che con le sue contraddizioni, ma anche un'altra morale, che come è accaduto in Inghilterra, come potrebbe accadere in Spagna, quando si fanno elezioni ravvicinate, alla fine quello che tiene duro il personaggio, in genere purtroppo capita, purtroppo dico io, lo metto tra parentesi, è in genere un esponente della destra, se tiene duro e se non si fa sconfiggere dai suoi avversari interni, che gli tendono trabocchetti, alla fine, come Boris Johnson ha fatto a Londra, così a Gerusalemme Benjamin Netanyahu la spunta, e la spunta a quel punto in una maniera forte, la spunta in una maniera che segna il prossimo periodo. Curiosa legge da osservare e da seguire. Grazie anche per oggi a Paolo Mieli, ci risentiamo venerdì, direttore, ciao. Ciao, grazie a te. E ci fermiamo, GR24, ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella, torneremo a parlare inevitabilmente di coronavirus e poi di primarie americane, certo, a tra poco.